Ed ora tocca a lei. Sì, deve ordinare qualcosa da mangiare e da bere. You have to order something to eat and drink. Listen to the waiter. Il cameriere. And order the last thing he suggests. Ascolti il cameriere e ordini l'ultima cosa che suggerisce. Before an example, here are two words you'll need to understand fully. Beve. You drink, formal, and... Tè. Un tè. A tea. Ed ora l'esempio. Buongiorno. Beve qualcosa? Un caffè? Un tè? Un cappuccino? E nella pausa ordini l'ultima cosa che il cameriere suggerisce. Un cappuccino, per favore. Un cappuccino, bene. Ed ora a lei. E non dimentichi... And don't forget... Non dimentichi di dire per favore. Buongiorno. Beve qualcosa? Un'aranciata? Una birra? Un bicchiere di vino? Un bicchiere di vino, bianco o rosso? Un bicchiere di vino rosso, bene. Vuole mangiare qualcosa? Un'insalata, una pizzetta, un panino? Bene, un panino al formaggio, al salame o al prosciutto? Benissimo, un bicchiere di vino rosso e un panino al prosciutto.